abbiamo parlato, beh, anche di Firenze, però è stata universale, infatti, che non è interessato a questo tipo di movimentazione urbana. Da quando siamo fatta la Gran Via di Parigi e abbiamo visto anche l'assetto di Piazza del Mazzo, è stato totalmente cambiato. E prima del sottopassaggio, che guarda Piazza del Mazzo dalle porte, c'è un'occupazione da 6 anni. E anche questa ormai è stata andata all'asta, è stata venduta. E vabbè, prima di individuare Corsica, cioè familiare, si era voglia trasformare in una cosa seria. Quindi anche in questa zona è interessata appunto a questo momento. E ragazzi, cioè, ora ovviamente noi pensiamo alla fattoria e un'esperienza diversa che è stata fatta da un'altra, che ci ha avanti con un tipo di differenza rispetto a quello che ci vogliono imporre tutti i giorni, no? E in realtà è molto importante riuscire a sostenere tutte le occupazioni di Firenze, che sono tutte preoccupate in questo momento. Infatti abbiamo iniziato un percorso che include diversi, perché come ci vogliono per avere questo punto di incontro, sia perché è centrale, sia perché c'è una componente molto dinamica. Quindi anche noi ci stiamo muovendo in questo modo per cercare di fermare questi processi che sono una parte impossibile, però insomma, cioè siamo felici anche che siamo in questa attività, che siamo in dialogo, perché insomma è importante per ribadire sempre più spesso questo tipo di idee, anche appunto a chi non vuole lavorare direttamente questo tipo di esperienze, ma che in realtà aiutano a terra una processo di identificazione, cioè nel momento in cui c'è un'occupazione proprio per un sindaco o per una persona che vuole un tavolo di sopra, un po' più difficile sarà una cosa che non è più io sono un abitante dell'occupazione di Valle Corsica che si trova dentro, come ho detto prima. Volevo dare due dettagli in più sulla vendita degli immobili. L'immobile, con la nostra casa e lo spazio sociale, è stato venduto a un'asta a una banca che non dà Unipol e Sai Fondiaria, insomma, una grande, come sapete, un colosso finanziario che ha preso in lotto sia l'occupazione dei vari appartamenti all'interno del quartiere residenziale di Rifredi. In questo momento sono poche chiaramente le novità, e nulla, volevamo dire un po' sia qual era anche il nostro modo di far capire anche ai residenti, agli abitanti, a tutte quelle persone. In questi 6 anni abbiamo messo in contatto sia con noi che tra di loro attraverso tante iniziative, come qua anche lo spazio occupato della polveriera, cercare di portare un contributo, cercare di lottare perché il nostro spazio, il loro spazio, sia in qualche modo ancora esistente e fonte comunque di una vita che non parla di speculazione, non parla soltanto di commercio e banali contatti monetari. Una cosa che volevo dire è che questo percorso è dato la vita in polveriera per la difesa degli spazi occupati, degli spazi pregestiti. Il 16 febbraio faremo partendo da una passeggiata, un volantinaggio per cercare comunque di far capire anche questa, quella è la nostra situazione agli abitanti del quartiere. Partirà settimana alle 11 a Piazza Dalmazia e concluderà nel nostro posto con un pranzo, quindi siete tutti invitati a partecipare. Grazie. Una di questa integrazione giusto per cristallizzare a livello cittadino la situazione di Gallo Corsica, visto che appunto non si arriva, è una situazione di molto il motivo per cui un'amministrazione si accanisce per esempio contro un'area cane autogestita ricavata in uno spazio che era abbandonato è il fatto che al centro di quella zona è prevista la stazione Poste, cosiddetta, comunque la stazione dell'alta velocità di Firenze, e lì viene a contatto anche che con le tramvie, quindi comunque quella diventa l'hub a livello di movimento di passeggeri principale della città. Giusto per dire che comunque appunto cioè, come le grandi opere no, vanno a decidere il destino dei territori imponendo dall'altro, la stessa cosa diciamo la turistificazione. Cioè queste due cose sono due cose che si autoriscono.